Parliamo dell'incontro che è stato venerdì scorso organizzato da Che Spazio? Sì, parliamo di questo incontro. È uno spazio organizzato da Che Spazio all'interno del Festival Logos, al CSOA Ex Nia, e all'interno insomma di questo grande spazio di parola ha avuto spazio anche la parola femminista, con questo incontro dal titolo Il tempo della militanza femminista, declinare l'esperienza del tempo tra lavoro, cura e militanza. Le compagne di Che Spazio l'aspettavamo in questo momento, ma c'è stata un'incongruenza sui tempi, insomma, quindi ve lo presentiamo noi molto sinteticamente. È stato un incontro molto partecipato, diciamo che i gruppi che sono intervenute in maniera organizzata sono stati il Centro Donna Dalia, le compagne del 22 Resiste e Femministe 9, ma le presenze insomma andavano molto oltre queste tre sigle. Il dibattito è stato molto articolato, ci sono stati molti interventi, ma per chi non ha potuto partecipare di persona, vi rimandiamo, andiamo, come dire, in sintesi tre interventi dei gruppi che ho citato, ovviamente facendo un po' torto alla ricchezza del dibattito e anche alla ricchezza dell'esposizione dei tre gruppi, perché ve li abbiamo un po' sintetizzati. Si trattava comunque di un momento di confronto tra differenti esperienze di militanza e attivismo di donne, femministe, lesbiche, queer, migranti e native, così diceva la convocazione, sull'uso e sulla percezione del tempo, come si conciliano e si incontrano i tempi del lavoro, di cura, del lavoro domestico, dell'impegno politico e il tempo per sé. Questa era la domanda. Manderemo uno dietro l'altro tre appunto interventi d'apertura. Il primo che sentirete è delle compagne del Centro Donne Dalia. Seguirà poi una compagna del 22 di Via De Volsci e poi le Femministe 9. Buon ascolto e poi torneremo in voce alla fine di questo spazio. Io metto, visto che ho iniziato con Marianne Faithfull, metto due minuti di The Ballad of Lucy Jordan, perché a proposito è veramente una cosa sul tempo delle donne e come liberarsi per avere tempo. Beneath the covers, dreaming of a thousand lovers, till the world turned to orange and the room went spinning round. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind. Dalia è un centro antiviolenza che nasce da una lunga esperienza di militanza femminista qui alla SNIA. Loro nascono all'interno dei corsi di italiano per donne, fatti inizialmente alla SNIA e poi trasferiti in una scuola e poi infine nel consultorio. E lavorando con le donne a partire dalla lingua e i corpi delle donne, si era sentita l'esigenza di affrontare il tema della violenza sulle donne, che spesso veniva riportato. E allora a Roberta ci piacerebbe chiedere in qualche modo cos'è il tempo della violenza, il tempo dell'uscita dalla violenza per le donne che sono dentro percorsi di violenza, ma anche per delle donne che praticano percorsi di lotta contro la violenza di genere. Va bene, ciao a tutte. Renata è stata molto esaustiva nel raccontare la storia di come siamo arrivati a Dalia. Aggiungo solo il pezzettino dell'Assemblea delle Donne del Consultorio. Noi ci teniamo molto perché abbiamo fatto rinascere questa Assemblea delle Donne. è venuta fuori la questione appunto della violenza. Quando diciamo è venuto anche a noi l'invito delle compagne di Che Spazio per questo momento di confronto insieme, ci siamo interrogate su quello che poteva essere il nostro contributo, e forse l'idea che ci era venuta appunto partendo dalla domanda mi poneva Renata è un po' specifico rispetto a questo percorso che noi stiamo facendo col centro antiviolenza che abbiamo aperto prima al consultorio come sportello e poi anche alla Serona. Siamo riusciti dopo una lunga lotta ad avere uno spazio per questo centro. La cosa è venuta fuori ragionando su quella che è la base, diciamo, la spirale della violenza, no? Quando le donne finiscono in questa spirale violenza, in qualche modo non è soltanto il loro potere come individue a essere limitato, ma è proprio la loro concezione del tempo. Il loro tempo è, prima parlando con qualcuno, diceva, proprio la mancanza di progettualità. Cioè loro sono schiacciate su un presente continuo, e anche quando il loro aguzzino, perché io penso che sia proprio in questi, o il loro potenziale assassino è assente fisicamente dal loro tempo, continua a permanere, perché la condizione di violenza erode la possibilità di vivere, di percepire il proprio tempo come qualcosa che io posso spendere, impiegare, vivere, percepire. In questo confronto con le donne che noi incontriamo è veramente significativo sulle frasi che si ripetono sul non c'ho tempo, non ho possibilità di fare queste cose, no? Come se il potere, la possibilità nel tempo fosse completamente scomparso. La cosa che diciamo noi pensiamo e che ci sembra di constatare durante il percorso, nella fuoriuscita c'è questo tentativo di riappropriazione che comincia da quella piccola ora che è il colloquio, quella mezz'ora, quell'oretta, e poi l'appuntamento che si ripete. È un tempo in cui comincia una riflessione, una collaborazione, un tempo di lotta che noi intendiamo di lotta individuale e collettiva. Di lotta individuale perché in quel momento è la donna che viene allo sportello che comincia la sua lotta per liberarsi dalla spirale della violenza e dalle violenze che subisce, fisiche o psicologiche che siano, ma anche una connotazione politica e collettiva, perché quello che noi pensiamo sia un centro antiviolenza, uno sportello, è un posto in cui io non incontro una psicologa, un'operatrice, io incontro una donna con la quale mi confronto e comunque con cui condivido e trovo una solidarietà, un appoggio, una mancanza di giudizio, perché io non sto lì a giudicare quello che tu fai nella tua vita o le tue cose, le tue scelte. E questo è assolutamente per molte di loro una cosa completamente nuova, un riappropriarsi, un riprendere un respiro nel proprio tempo, la possibilità di pensare che tra una settimana ho un appuntamento e posso pensare. Noi alle donne che arrivano cerchiamo di dare appunto questo tipo di sostegno, questa accoglienza, questa solidarietà, e nello stesso tempo a volte anche strumenti legali, perché a volte hanno bisogno di quello, a volte proprio l'appoggio fisico e materiale per poter fare i bagagli e andare via di casa. Però la cosa che ci viene da dire e vorremmo condividere con voi è che questo non è un tempo lineare. Il tempo della lotta secondo me non è mai una lineare. Una delle cose che dicevo una volta parlando con Renata è che il tempo lineare, come scorre progressivo di secondi, è un'idea del mercato, un'idea capitalista legata alla produttività, un obiettivo devo raggiungere, ho fallito. Non è questo il nostro tempo, non è questa la nostra percezione del tempo, e secondo me il tempo delle donne ha una connotazione di circolarità, di andare, di venire, di, come dire, proprio un ciclo. E noi questo l'abbiamo sperimentato, devo dire, anche in maniera negativa, nel senso anche deludente a volte, perché le donne che arrivano allo sportello, sarebbe una favola bellissima se loro potessero arrivare, no? E dopo alcuni incontri liberarsi, non è sempre così, e comunque appunto non è lineare, non è un procedere in un'unica direzione. Molte di loro vengono, sono convinte, vanno anche via di casa e poi ritornano in una maniera che sembra inspiegabile, che ti fa anche a volte arrabbiare, che ti fa disperare. Però in qualche modo il processo è attivato ed è un lavoro di riappropriazione lento e continuo, un tempo che non puoi misurare in maniera univoca. E pensavamo che appunto forse questa è anche una connotazione che appartiene alle lotte, no? Chi lotta e chi si, soprattutto chi ha a che fare appunto con i percorsi femministi, ecco, prima le compagne del 22 raccontavano di un tempo in cui c'era un modo, no? In cui la presenza delle compagne forse era più forte. Io penso che ci sia una ciclicità, c'è anche un bisogno, momenti come questi, no? Anche magari per vederci, confrontarci, cominciare a elaborare delle idee nuove partendo dal fatto che le nostre vite stanno cambiando, perché cambia il mondo intorno a noi. Mo mandiamo l'intervento di una compagna del 22. Una prima riflessione che ci siamo trovate a fare è come in realtà avevamo una difficoltà in qualche modo a una concezione della militanza femminista separata da un tempo per sé, e quindi ci siamo trovate molto più a nostro agio a parlare di una pratica femminista che attraversa varie dimensioni di vita, dove lo spazio per il sé è dentro a quella pratica femminista. Per cui questo è un primo punto di riflessione, che mentre rispetto alla militanza mista c'è una scissione più forte che senti rispetto a tutta una serie di attività, i famosi accolli, nella pratica femminista questa cosa, nei momenti migliori della pratica femminista, insomma i momenti di maggiore forza dei percorsi femministi e lesbici, questa cosa è molto più sfumata, cioè gli spazi di confronto e riflessione di percorsi che fa insieme sono spazi che investono in maniera forte il tuo spazio di benessere anche, e quindi questa scissione, per esempio su questo punto la prima riflessione ci è venuta un po' questa, e quindi recuperare un po' il senso di una delle pratiche femministe che coinvolgono tutto un percorso di presa di coscienza e di trasformazione del sé, che è un po' dentro, almeno per quanto ci riguarda, una pratica separata. Quindi probabilmente venendo da percorsi separati in maniera molto, molto esatta, quello che è successo per una serie di periodi, poi ovviamente le cose, no, cambiano, abbiamo tutti esperienza della differenza tra quando hai una possibilità e un momento di percorso di crescita e di forza, e quando per esempio nel nostro caso ti trovi a dover gestire uno spazio, e questo implica una serie di attività che, insomma, il percorso di crescita è più limitato fondamentalmente, o perlomeno è molto più assimilabile a tutto quello che succede quando c'è uno spazio sotto sgombero in generale, nel senso che la difesa del 22 sta sotto sgombero, non è che da un altro spazio sotto sgombero che rischia l'accesso, eccetera, ovviamente. Mentre i momenti di percorsi che ti interrogano, investono spazi, cioè dei percorsi di presa di coscienza sulla tua vita, beh, quelli è più difficile definirli come momenti separati dallo spazio per sé. Fortunatamente questo, come altri percorsi che investono in maniera più profonda, che possono essere percorsi di agenza. Per cui, e questo aspetto, per esempio, vorremmo portare avanti un progetto di archivi al 22. L'anno scorso abbiamo iniziato ad aprire tutta una serie di scatoloni con materiali dati da compagni, eccetera, e nella visione, al momento siamo allo stadio, abbiamo aperto gli scatoloni, e quindi nella visione di quel materiale, che è principalmente legato all'esperienza dei collettivi femministi degli anni 90 qui a Roma, e quindi dei quali si sa molto poco, tranne, cioè, tutti i racconti belli che fai con le compagne quando ne incontri varie situazioni. Però per esempio su questa cosa era interessante, cioè è stata interessante, riflettendo su questa cosa del tempo e dell'utilizzo del tempo, cogliere suggestioni, perché al momento sono solo suggestioni ovviamente, però suggestioni rispetto a quegli anni 90 dove la dinamica dei collettivi femministi, almeno come prima impressione che abbiamo avuto, era più attenta o dentro anche a delle dinamiche cittadine, per cui c'era una presenza delle compagne, anche tutta una serie di campagne, di cose che succedevano. Erano anni in cui c'era un fermento comunque in generale su Roma, o comunque in generale in Italia, un po' diverso, erano gli anni della Pantera o il dopo Pantera, erano comunque condizioni che i movimenti stavano attraversando molto differenti da quelle di oggi. Però questa cosa comunque come suggestione è arrivata, e quindi un'attenzione anche di una capacità di essere molto, come dire, efficaci nella tempistica della comunicazione o della risposta a quello che succedeva in città o comunque che succedeva anche in generale sulle tematiche della politica che si muovevano, cosa che invece è cambiata abbastanza, almeno per gli anni in cui ci siamo trovate, dell'assemblea del 22, che poi si è ricostituita bene o male nel 2004-2005 nella forma più attiva di militanza, si è conclusa nel 2009-2010 quando l'esperienza si è mossa e si è conclusa, quegli anni là i percorsi che le compagne che stavamo al 22 hanno portato avanti erano percorsi molto più centrati sullo spazio di parola e di discussione e di riflessione, del mettere in campo delle iniziative e dei percorsi che rispondessero molto all'esistenza e alla composizione delle donne che facevano parte di quell'assemblea. E questo aveva degli aspetti di forza e di intensità nel percorso che facevamo, con dei limiti che erano quelli appunto dell'efficacia produttiva della comunicazione, cioè su questo assolutamente una grande difficoltà, no? E questa è un po' una difficoltà che il femminismo si porta periodicamente dietro, eccetera, eccetera, e poi viene in qualche modo delegata alla singola o alle due o tre che scriveranno sulla storia di quelle tante donne che i percorsi l'hanno fatte. E diciamo, e questi anni sono stati un po' caratterizzati da una serie di percorsi che poi erano pure in qualche modo all'esterno legati magari ai consultori, a un discorso sulla salute piuttosto che a una presenza su una serie di questioni che principalmente violenza contro le donne, eccetera, però avevano questa caratteristica per cui i tempi dell'organizzazione, chiamiamolo dell'auto-organizzazione e della reazione erano molto tarati sulle esigenze della composizione delle vite delle donne che facevano parte di quell'assemblea. Nella maggior parte non si ponevano la questione del lavoro come una questione da affrontare politicamente, non si è mai enucleato come discorso in sé la questione del lavoro delle donne. Per cui, mentre molto di più si stava dentro a uno spazio veramente di parole e di confronto. Quindi questo è un po' stata la riflessione sul tempo, che pochino come tempo storico magari del 22 si poteva un po' raccontare. E su questo era il secondo degli interventi all'incontro La militanza sui tempi della militanza femminista. Adesso vi lasciamo ascoltare Marianne Faithfull, Working Class Hero, per così interrompere un po' il fiume di parole, e poi è la volta dell'intervento delle femministe nove. By giving you no time instead of it all. So big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years. A working class hero is something to be. Compagnie del F9. Proprio due parole su questo collettivo. F9 è un collettivo femminista che nasce 2 anni fa, unendo donne provenienti da percorsi politici molto differenti, che si sono riconosciute nel workshop del gruppo numero 9 di Pestum 2012. Questo riconoscimento è avvenuto diciamo in un luogo politico e femminista in cui però si stava parlando di noi, inteso come le trentenni, le ventenni. E dicevo appunto, in questo riconoscimento tra noi è avvenuto in un luogo politico e femminista in cui si stava parlando di noi, inteso come le ventenni, le trentenni dell'oggi, però senza parlare effettivamente delle nostre esistenze, ma usando un approccio generico, astratto, non aderente alle nostre vite e alle nostre angosce sul futuro anche. E anche questa, diciamo, è stata la spinta per scrivere il manifesto che poi abbiamo scritto. La cornice delle nostre condizioni materiali, che determinano le nostre vite, che significa spazi, corpi, abitazioni, spostamenti, fatica, denaro, salute, sessualità, eccetera, e anche lavoro, ma soprattutto il fatto che il lavoro non c'è, e anche se non c'è, non ci porta via meno energie. Tutto questo ha reso evidente che il discorso centrale da fare fosse quello sul tempo delle nostre esistenze. E il secondo paragrafo del manifesto dice: siamo donne sull'orlo di una crisi di nervi, e la crisi è la narrazione dominante del tempo che viviamo. Un nesso ci sarà pure, vogliamo nominarlo. Viviamo il tempo della crisi e della sconfitta, un tempo di crisi economica e politica, vogliamo immaginare e costruire un altro tempo. E siamo femministe storiche, il tempo presente ci fa orrore e vogliamo agire per cambiarlo. Questo riappropriarsi della dicitura di femministe storiche è nata come una battuta e poi ne abbiamo fatto un punto politico. Di solito con femministe storiche si intende le donne che hanno iniziato il movimento femminista. Per noi dirci anche noi femministe storiche significa che ognuna di noi ha un'autorevolezza sul presente rispetto alla propria esistenza, e quindi vive un presente e vive anche i processi storici. E parlare del tempo, se l'ottica è quella di restare ancorate alle nostre esistenze, ha significato per noi parlare di precarietà, non solo intesa come contratti atipici o intermittenti, ma anche e soprattutto come condizione esistenziale. E siamo partite pensando che le donne, a fronte di importanti lotte di emancipazione, sono state incluse, e non uso a caso questo termine dell'essere incluse, nel mondo del lavoro in modo ufficiale molto tardi, anche se ufficiosamente le donne nel mondo del lavoro ci sono state da sempre. E questo ha portato all'interno del collettivo a una doppia considerazione. Diciamo, il mondo del lavoro è innanzitutto un lavoro innanzitutto un mondo basato su regole e su tempi presunti maschili, e quando dico presunti maschili intendo del maschio bianco, etero, e quindi improntati sulla performatività, competitività, individualismo, tutte cose che in qualche modo ci siamo da subito rese conto che non conciliavano con i nostri desideri e con le nostre ambizioni anche. A fronte di questo, scriviamo anche nel manifesto, abbiamo resistito affinché le nostre vite e i nostri corpi non fossero portate al mercato del lavoro femminilizzato, che ancora una volta ci assegna un posto, anche quando un posto non ce lo dà, che spesso ci sussume senza assumerci. Questa considerazione ha dato luogo a uno spostamento, cioè a un tentativo politico che ha trovato forza nella presenza delle altre, che abbiamo nominato come togliere il lavoro dal centro, senza pensare però che da lì potesse provenire il nostro senso di noi, e senza sperare che il lavoro fosse il luogo dove investire il nostro desiderio. Anteporre i nostri desideri al lavoro per molte di noi ha significato potenziare tutto il resto, e quindi potenziare tutti quegli spazi che individuavamo come spazi di autodeterminazione, in primis la politica. Non è stata una mossa limpida però, e non è cambiato l'essere soggetti a tempi altri, allo sfruttamento e all'autosfruttamento anche. Successivamente, svuotato di importanza, il lavoro è rimasto privo di parole, senza che per questo smettessimo di portare al lavoro un di più, soprattutto nei termini di cura delle relazioni, che raramente va a nostro vantaggio e ancora meno si trasforma in una forza conflittuale. Quel che ripaga il nostro lavoro non è solo il denaro, ma anche senso di sé e del mondo, è il piacere della relazione, è il desiderio di darsi e di dare alla società il riconoscimento di sé in uno spazio da condividere con altri e con altre. Il tempo del lavoro è anche un tempo di responsabilità, dal centro il lavoro, e quindi rinunciando a una riflessione su di esso, questo ha voluto dire non avere più parole per nominare la fatica di questa responsabilità e non avere più lo spazio del lavoro come terreno di lotta. E racconto un aneddoto che è simpatico però fino a un certo punto ed è sicuramente politicamente significativo, che la sera arrivavamo stanchissime a riunione e la domanda era: come stai? Ti vedo un po' stanca. Sì, stanca, ma che hai fatto oggi? Niente, ho lavorato. Quindi eravamo arrivati a questo livello. Il problema sta proprio in quel niente, perché quel niente era tempo, erano tante ore, tante energie, tanto investimento. Non nominare la questione del denaro, poi, legata al tempo del lavoro, ha fatto sì che scomparisse anche una parte del senso del lavoro, cioè che si lavora per bisogno anche. Tutta la responsabilità che invece era nominata era quella del cosiddetto tempo liberato dal lavoro, per noi il tempo della politica. Un tempo da dedicare a sé, al mondo, ma a volte frustrante anch'esso, perché è alla prova dell'oggi, dell'urgenza, dell'agenda politica, della convocazione a intervenire in un incontro, in piazza e così via. Tutte cose molto importanti, ma che devono essere mediate con quello che abbiamo voluto chiamare tempo fertile. Tutto questo percorso che è riportato così sembra essere molto lineare e molto, molto preciso, eccetera. Stava in effetti in un magma di riflessioni su tempi di vita, tempi di lavoro, tempi di militanza. E in queste riflessioni abbiamo pensato al reddito, ma non come l'abbiamo pensato, non come una rivendicazione rivoluzionaria, piuttosto come una riforma redistributiva delle ricchezze. Non una rivendicazione neutra per un cittadino neutro. E con questo intervento delle femministe nove concludiamo lo spazio che era dedicato all'assemblea convocata da Che Spazio, in cui si è parlato del tempo della militanza, dei tempi delle donne.